24 di Giovanni Minoli. Si sono da poco chiuse le iscrizioni per il prossimo anno scolastico e il dato è che gli italiani amano il liceo. Il 54,6% dei 14enni italiani sceglie infatti il liceo, un dato in crescita ormai da anni, con in testa il liceo scientifico. Istituti tecnici e professionali in calo. Il 30,3% dei ragazzi ha optato per un istituto tecnico, mentre il 15,1% dei nuovi iscritti ha scelto un istituto professionale. Insomma, i ragazzi sono sempre meno interessati ad imparare un mestiere, come ha denunciato il presidente dell'Istituto Romagnosi di Erba, che quest'anno rischia la chiusura. Solo 8 preiscritti al corso per elettricisti, eppure all'uscita della scuola l'impiego è assicurato. Ma come approdano questi studenti, quelli del liceo in particolare, all'università? È chiaro ormai da molti anni che alla fine del percorso scolastico troppi ragazzi scrivono male in italiano, leggono poco e faticano ad esprimersi oralmente. Da tempo i docenti universitari denunciano carenze linguistiche dei loro studenti con errori appena tollerabili in terza elementare. Così inizia la lettera che 600 accademici italiani, il gruppo di Firenze, hanno inviato al governo. Si chiede a gran voce un intervento. In risposta, un altro gruppo di professori, molti linguisti, scrivono: «I bambini italiani sono tra i più bravi al mondo. Negli anni siamo progrediti e sempre più persone vanno all'università. Due fronti, chi vede il declino, chi il progresso. Fatto sta che, secondo i dati invalsi, il 26% degli studenti italiani fa errori di grammatica e il 78% ha difficoltà con la punteggiatura e tanti problemi con la sintassi». Claudio Giunto, insegnante di letteratura italiana all'Università di Trento, qualche settimana fa sul Domenicale del Sole 24 Ore si è autodenunciato, ha detto: «Ho appena messo 18 al compito scritto di uno studente al quinto anno di università che meritava di essere bocciato». Perché meritava di essere bocciato? Perché non sapeva scrivere in italiano decente, cioè faceva errori di sintassi e scriveva un italiano puerile. Certo, al quinto anno un po' troppo. Ecco, ma perché invece ha deciso di non farlo? Perché quando sono la metà degli iscritti a scrivere così e siamo al quarto o quinto esame ripetuto, io capisco che il messaggio che lo Stato mi sta mandando è quello di selezionare non troppo, insomma, cercare di promuovere un buon numero di persone. Ma e quindi un giorno probabilmente anche lui sarà un insegnante, quindi è una catena verso il degrado? Questa così è troppo tragica, spero che questo non sarà insegnante, la maggior parte, molti insegnanti sono bravissimi, però ce ne sia sicuramente anche qualcuno che non sa scrivere perché non gliel'hanno mai insegnato. Professor Giunta, comunque tra i colpevoli dell'incapacità di scrivere degli studenti, quindi c'è anche lei in qualche modo se lo promuove. Se lo promuovo anch'io, sì, certamente. Senta, ma quanti esami scritti ci sono in una facoltà come quella di lettere dove insegna lei? Abbastanza pochi direi, non lo so, francamente non farei il numero, ma diciamo 3-4-5 al massimo. Però le università oggi sono interessate ad avere il maggior numero di studenti anche a discapito della qualità dell'insegnamento, così? No, così è troppo tragica, è troppo netta. No, è ovvio che abbiamo interesse ad avere un certo numero di studenti, non troppi, però è evidente che non possiamo selezionare soltanto quelli bravissimi, specie in discipline come le nostre, letterarie, certo. Se no sarebbero fuori 20 studenti all'anno, 15, e sarebbe troppo. Troppo. Ma il numero chiuso può essere una soluzione? Un numero programmato chiuso, che però è un numero abbastanza alto, non può mantenere in piedi un'università che abbia solo 10 studenti, perché certo. Costa troppo. Per gli studenti che hanno fretta di laurearsi, anche se le loro famiglie spendono per mantenerli, saper scrivere è poi così importante? Forse non è così importante, nel senso che conta il pezzo di carta, perché c'è il valore legale della tesi, e quindi se uno sa le cose o non le sa non è indifferente, però certo avere il titolo però velocemente per andare a lavorare è una cosa utile. Senta, ma l'idea lanciata dai 600 docenti del gruppo di Firenze per salvare l'uso della lingua italiana con una revisione delle indicazioni provenienti dal Ministero è l'unica strada, allora? No, non è una strada, non serve a niente. Ah, non serve a niente, ma se lei prima diceva in fondo è quello che mi chiedono di fare, di promuoverli anche se non sanno scrivere. No, le indicazioni ministeriali non c'entrano niente con le promozioni, le indicazioni ministeriali dicono quello che bisogna studiare a scuola, ma nessuno le legge, comunque se le legge poi la scuola è molto diversa da quella che si immagina il Ministero. non è quella la strada. Ma in fondo, scrivere, parlare correttamente l'italiano sembra che non sia così importante, lo dimostra una classe dirigente che con l'italiano ci fa pugni tutti i giorni. Senta qua. Breve circonciso. Conciso, quella è un'altra cosa. È come se domani mattina andassi in tribunale, presentassi 20 esposti contro Renzi, lo iscrivessero al registro degli indagati, verrei in questa piazza e urlerei: Renzi è indagato. Dottor De Scassi, quanto tempo ci avrebbe voluto per arrivare allo stesso punto? Se potrebbe cortesemente controllare. Se vi trovereste, se ci troveressimo. Trovassimo, scusate. Drastica riduzione del fenomeno di codesta nel traffico veicolare a Roma. Alla sindaco Raggi la telefonerò. Vabbè, insomma, manca la domanda sociale del prodotto corretto uso della lingua italiana. Sì, non gli frega niente a nessuno, insomma, quindi se la classe dirigente lo usa così male vuol dire è nata una nuova lingua, tutto sommato. No, si usa male quella che c'è, insomma, ma questo non dà fastidio a molte persone, quindi va bene così. Sì, la sua voce è strana però, mi sembra da una parte compiacente e dall'altra disperato. No, io non sono compiacente, sono un po' disperato perché faccio questo mestiere. Dopodiché ho molto presente la frase di Kafka che diceva: nella battaglia tra te e il mondo scegli sempre la parte del mondo. Cioè, se tutti quanti fanno così, a un certo punto bisognerà fare così. Quindi alla fine saper scrivere sarà una bella virtù privata, come saper dipingere, suonare uno strumento, e gli esami di maturità li faremo in cinese, come succede già a Trento. Lo spero di no, io cerco di lavoro perché non succeda questo, naturalmente, però vedo che il mondo va in direzione contraria e sarei sciocco se pensassi che io devo avere ragione per forza e il mondo sbaglia. Anche se succede questo, io devo cercare di essere realista prima di tutto. 800 24 00 24 per le telefonate, 349 238 6666 per gli sms. Insomma, realista prima di tutto, il mondo va in una direzione, non ha senso per un professore bocciare per l'ennesima volta uno studente che scrive al quinto anno di università un italiano molto improbabile. Ecco, Mario, avere il titolo velocemente per andare a lavorare, poi però non saper parlare la propria lingua, ha senso, non ha senso? Forse anche scegliere le scuole sbagliate, avere delle indicazioni sbagliate dai genitori. Abbiamo visto che se uno fa certi corsi il lavoro lo trova subito e invece con altre scuole è destinato alla disoccupazione. Ma dunque, io parlo così. No, dato di quello che tu conosci la scuola, perché sì, c'è una moglie che è nel mondo della scuola. Io so questo, perché l'ho provato su di me e sui miei amici, eccetera. La scuola elementare ti deve insegnare bene a scrivere, leggere e far di conto. Allora, si parte dalle elementari. Se tu non cominci bene da là, poi sai, è tutto zoppichi sempre. Quindi dalle scuole elementari ti leggo, perché secondo me è proprio il sintomo di come viene usato l'italiano, di che cos'è l'italiano. La lettera scritta, pubblicata oggi da Repubblica, è scritta da Sergio Chiamparino e Giuseppe Sala, le prime due righe. Poi tu mi dici se questo è l'italiano che bisognerebbe usare. Il PD deve affrontare i problemi derivanti dagli eventi divisivi delle ultime settimane. La recente spaccatura del partito può avere ripercussioni anche sugli assetti locali e questo mette in discussione quell'efficace rapporto tra centro del partito e periferia del PD, al quale il PD e le formazioni da cui è gemmato hanno tanto dovuto della loro fortuna. L'aspirina l'hai preparata? No, cioè, capito, è un'interna corporis, è un linguaggio, cioè, iniziatico. È un linguaggio, è un iniziatico linguaggio. Che, ecco, naturalmente, la lingua, secondo me, è lo specchio esatto, è la lingua preciso, di quel mondo, insomma. Esatto, ed è lo specchio di un paese. Forse è inutile scriverlo su un giornale. E se ti vuoi far capire non scrivi così, certamente. Certo. Quindi è l'uso della lingua che secondo me, ecco, però, è d'altra folle. Parte, invece, abbiamo sentito nella scheda, Pietrangelo, che è il mondo del lavoro cerca diplomati professionali che sono inseguiti come proprio come cercati come l'oro, e però non vanno perché le famiglie li spingono a fare il liceo. E allora? Ma io credo che comunque queste statistiche sono ballerine, perché fino a 3 anni fa, quando per esempio uno dei miei 2 figli era iscritto all'Istituto Agrario, l'Istituto Agrario invece aveva una esuberanza di iscrizioni, che è coerente anche con le scelte del mercato, con la, certo, con la realtà. Sono convinto che le statistiche siano ballerine, di tanto in tanto arriva sta notizia, sta novità che siano stati scelti licei, in realtà io vedo soltanto licei chiudere. Non lo so come le facciano queste statistiche, però nella grande realtà italiana i licei sono sviliti, e sviliti. Però vorrei aggiungere un elemento che secondo me è significativo in questa disamina straordinaria fatta da Claudio Giunta prima, e cioè che la società attuale ha deciso di ridurre, se non di degradare, il ruolo degli insegnanti. Sì, sì. Certo. L'insegnante non è più centrale nell'orizzonte sociale della vita quotidiana. Non ha lo tant'è status vero, simbolo. No, non ha lo status simbolo, tant'è vero che il mondo della scuola, la realtà della scuola, quel linguaggio che prima Mario ha evocato in una questione di partito, Dio ce ne scampi, qualcuno entrasse in un consiglio di classe, in un consiglio di istituto, nelle circolari, si ascolta un linguaggio che non corrisponde alla realtà. Come diceva Giunta, da quando loro hanno deciso di togliere la cattedra, perché ex cattedra arriva l'insegnamento, da quando hanno deciso perfino di togliere il preside per farlo diventare dirigente scolastico, è diventato soltanto un parcheggio sociale. E nei parcheggi sociali si sta stravaccati lì ad aspettare che passa l'orario, il tempo. E una mancia prima o poi si guadagna. Professor Giunta si trova naturalmente nella sua esperienza la fine di una catena educativa. A quel punto ritiene la bocciatura inutile, abbiamo sentito, l'ha detto con chiarezza disperata, diciamo in qualche modo. Ma in quale momento del ciclo scolastico la bocciatura può essere utile, educativa? Mario parlava dell'elementare, ad esempio, è giusto bocciare i bambini all'elementare. La riforma della scuola avrebbe dovuto vietarlo, ma il ministro Fedeli invece adesso ha cambiato idea e ora se ne discute nuovamente. Daniela Novara, che è pedagogista, direttore del Centro di Psicopedagogia per l'Educazione e la Gestione dei Conflitti, è l'autrice, è l'autore del volume Punire non serve a nulla. È giusto bocciare i bambini elementari? Beh, assolutamente no, nel senso che i bambini devono godere dei loro errori, devono godere della loro immaturità, devono godere della possibilità di provarci ripetutamente e di poter su questa base imparare. Se al bambino togliamo questa possibilità non impara più. Certo, perché se togliamo la dimensione del gioco non capita più niente. Lei dice che il metodo Gentile è una ciofega, cioè perché? Gentile purtroppo ce lo teniamo ancora in eredità, nonostante si tratti di epoca fascista, perché lui ha introdotto l'idea che l'insegnamento è qualcosa di aulico, qualcosa attinente alla capacità aulica appunto dell'insegnante di trasmettere contenuti a prescindere da qualsiasi metodo, a prescindere da qualsiasi tecnologia professionale. Ecco, lei ha recuperato il metodo della Montessori, che è apprezzato in realtà in tutto il mondo ma non in Italia, perché da noi no? E per quel motivo in Italia hanno prevalso sostanzialmente 2 scuole, senz'altro quella gentiliana, che è ancora quella, certo, che ci teniamo, ma anche a sinistra, diciamo così, l'idea dello studio assoluto, la famosa idea gramsciana dello studio come riscatto, emancipazione, ha tagliato fuori una metodologia eccezionale come quella della Montessori, che è più basata sulla sensorialità e sui materiali pratici. Ma come si fa a gestire la naturale tendenza aggressiva dei bambini a scuola, professor Novara? Quella dobbiamo tenercela. Io ho inventato il metodo litigare bene, che consente ai bambini di utilizzare la loro aggressività come risorsa per continuare a imparare senza essere colpevolizzati. Ecco, lei ha fondato una vera e propria scuola per i genitori, per aiutarli a gestire i conflitti con i figli. Ma le chiedono aiuto, ci sono i genitori che capiscono questa esigenza? Diciamo diciamo che oggi i genitori sono decisamente più motivati, più sensibili, allo stesso tempo però, diciamolo pure, sono anche molto molto più fragili sul piano emotivo, specialmente la crisi del padre la stiamo pagando a caro prezzo, quindi cerchiamo di offrire ai genitori quei basilari educativi, pedagogici che la tradizione non può più offrire, certo. Non c'è niente di utile nel tornare al passato. Senta, padri giocattolo, madri alleate dei figli, spesso in guerra tra loro, questo non aiuta certamente, no? Assolutamente, bisogna scoprire il gioco di squadra dove i genitori hanno un progetto educativo e non si lasciano irretire dal cercare di essere più disponibili possibili, una sorta di gara a chi è più disponibile, cede di più, a chi cede di più. Ecco. Esatto. Con lei un'ultima cosa, lei scrive che ai bambini non interessano i genitori parlanti, non sono fatti per ascoltare, sono fatti per fare cosa? Allora, per imparare vedendo, è l'esempio, cos'è? Ma io mi auguro di avere un'occasione significativa per parlare una volta per tutti di questo equivoco del dialogo con i figli. Ecco, diciamolo senza mezzi termini, sì. Educare i figli non è parlare con i figli, è organizzarsi bene. L'educazione è anzitutto un principio organizzativo, proprio per tornare alla Montessori, costruire un buon ambiente, e l'ambiente lo creano i genitori, lo creano gli insegnanti. Se fatti invece che con le parole, con i fatti. Assolutamente, con i fatti, con un progetto, con indicazioni chiare, operative, concrete, abitudini precise in famiglia, corrispondenti all'età dei figli. Altrimenti... Quindi le abitudini sono molto importanti, dare, costruire intorno al figlio, nella testa dei figli, delle buone abitudini è un elemento importante. Centrale, ed è come dire la magia dell'educazione, se riusciamo a fare questo diventa tutto più facile, se invece incominciare a parlare e a declamare tutto quello che ci capita per la testa. Si confondono le idee dei poveri ragazzi. Esatto. Ah. Ecco, Pietrangelo, il professor Novara l'ha sentito, è molto critico con il metodo Gentile, che è in uso nelle nostre scuole, ma il modello della Montessori, che è basato sulla sensorialità, sui materiali pratici, invece è apprezzato in tutto il mondo. Tu che ne pensi? Dove, come e quando c'è il metodo Gentile nelle nostre scuole? Quando ero ragazzo io c'erano già i decreti delegati. Io sono un uomo di mezz'età e quindi credo che ci sia una lunga distanza sulla presenza di Gentile. È tutto il contrario. La scuola italiana non è nient'altro che la deriva di questa idea piuttosto vegana della scuola. Sono delle fole, delle sciocchezzuole, e quindi rispondo non con parole mie, ma faccio appello a quelle di un grande filosofo come Massimo Cacciari, il quale dice che per una sorta di provincialismo qualunque imbecille di Heidelberg risulta importante e fondamentale rispetto a chi, come Giovanni Gentile, è nato a Castelvetrano, e su cui, diciamo, il nanismo si applica nel tentativo di sputacchiarne la grandezza. Tu, Mario, che dici? Povera patria. Io sono, come dire, sempre con uno spirito molto pragmatico. Cioè, se non funzionano le cose bene alle scuole elementari, poi tu te le trascini inevitabilmente anche alle superiori e poi alle medie. Ed è difficile recuperare. Sulla bocciatura, sì, che è tema molto dibattuto, è vero che l'universo interiore di un bambino è meraviglioso. Tutti noi siamo stati bambini e tutti noi ricordiamo quanto fosse magico quel mondo. Ma è anche vero che un bambino lasciato libero, sì, di fare totalmente quello che vuole, sì, poi generalmente non diventa un uomo. Insomma, ci vogliono le regole anche. Ci vogliono le regole e ci vogliono le prove. Anche libertà, libertà e regole. Ma per questo c'è il maestro e c'è l'alunno. Cioè, e il maestro deve avere la carta. Se no, cresce un bambino senza punti di riferimento. Ora, certo, io sono nato col mito della mia maestra, la maestrellina. Certo. E io sono sicuro che tutti i nostri ascoltatori di una certa età si ricordano benissimo del loro maestro, della loro maestra e del preside. Io ricordo... Che non cambiavano ogni anno. No, e non trovo... di disdicevole il fatto che quando entrava il maestro tutti noi ci alzavamo in piedi e salutavamo. Sì. Non trovo una cosa sbagliata dal punto di vista educativo che quando arrivava il preside tutti quanti avevamo un certo, diciamo, timore reverenziale, per così dire, per il suo arrivo, perché rappresentava l'autorità. Non trovo così sbagliato che il compagno di classe che si comportava male venisse in qualche maniera poi redarguito. Quindi, insomma, cioè, Montessori sì o Montessori no? Tu? Io sono per Gentile. Cioè, sì, ma perché a forza di Montessori, sì. Cioè, ragazzi, Montessori però, insomma, è come l'omino di burro di Collodi, ma non solo, non solo, dai, insomma, rispetto all'eccesso di autoritarismo è no, anche un certo passo avanti, diciamo la verità. Sì, però, vorrei ricordare, perché ci sono, scusate, le degenerazioni delle cose, vorrei ricordare poi, che Mangiafuoco nel Pinocchio sembrava cattivo, però in realtà era quello più buono, sì. Era quello mentre l'omino di burro se li portava tutti a farli trasformare in ciuchi. Insomma, secondo me è un dibattito gigantesco, ovviamente, perché va al di là delle nostre, diciamo, dei pochi minuti che abbiamo noi adesso. Però penso questo: il degrado del paese, che è visibile, viene prima, cioè, e deriva dalla scuola, ma dalla polverizzazione del sistema scolastico italiano. Resta, questo è il punto. Scusa Mario, resta il fatto, sì, Giovanni, sì, resta il fatto che nelle scuole attualmente i più bravi, sì, chi sono? I figli degli immigrati e su, sì, tutti, confermo, e su tutti i bambini, i ragazzini, gli studenti di origine cinese. Assolutamente, materie che non hanno neppure il beneficio della lingua, confermo, madre. Confermo, materie scientifiche, i bambini soprattutto di origine asiatica e non solo, medio orientale, sono bravissimi, sono i migliori. I bambini che sono sottoposti a un grande sacrificio familiare spesso sono i più bravi, sono geniali. Abbiamo un bel messaggio che dice: più ancora, sì, che a leggere e a scrivere, la scuola elementare aveva insegnato a ragionare e imparare. Certo. Eravamo sistematicamente indietro sui programmi ufficiali e invece eravamo straordinariamente avanti nella vita. Uno, sì, degli ultimi fortunatissimi allievi del maestro Manzi. Adesso andiamo a Piacenza, dove si sperimenta l'educazione intergenerazionale. Valentina Suzzani, che è coordinatrice pedagogica del progetto intergenerazionale dell'Unicop di Piacenza. Ecco, come funziona? Cosa vuol dire educazione intergenerazionale? Allora, il nostro centro funziona che in una stessa struttura sono presenti un centro diurno per anziani, una casa di riposo per anziani e un nido di infanzia che ospita bimbi dai 3 mesi ai 3 anni. E quanti sono gli anziani e quanti gli bimbi? Gli anziani sono 54 della casa di riposo, 25 del centro diurno. E i bambini quanti sono invece? I bambini sono massimo 42, in questo momento ne abbiamo 37 frequentanti, ecco, il nido. E da quanto tempo è attivo questo progetto? Allora, il progetto è nato in realtà nel 2009, quindi sono quasi una decina d'anni che è attivo. E diciamo che nel nostro progetto facciamo incontrare gli anziani e i bambini in attività sia strutturate che non strutturate, e li facciamo relazionare tra loro, certo, in modo molto semplice, in modo molto naturale. E quali sono le occasioni di incontro che voi costruite, diciamo? Ci sono occasioni strutturate come possono essere le attività laboratoriali, come attività di cucina, attività grafico-pittoriche, attività di lettura insieme, ma anche momenti informali come possono essere delle visite informali dei bimbi al centro diurno e alla casa di riposo e viceversa, quindi anche gli anziani che noi chiamiamo nonni che vanno a trovare i bimbi al nido. Ecco, quali sono le sorprese maggiori di questa sorta di coeducazione? Cosa vi sorprende? Cosa vi spiega di nuovo? Allora, quello che ci sorprende sempre è la naturalezza con cui gli anziani e i bambini riescono a creare delle relazioni significative tra loro, cioè la naturalezza con cui l'anziano si avvicina al bambino e il bambino che non è intimorito dalla figura anziana, ma anzi la ricerca, ci parla insieme, ridono insieme e stanno bene. Ma ecco, benessere che traspare, quindi si fiutano un po' a vicenda prima di fidarsi o no? Sì, devo dire che gli anziani e i bambini si scelgono. Cioè, non c'è niente di imposto, non ci sono delle precostituzioni nostre da sì, sì, da ho capito. E loro fra di loro si fiutano e si scelgono, insomma. Sì, assolutamente. E in genere chi si lancia per primo? Chi è che fa il primo? I bambini. I bambini perché hanno proprio questa vivacità che è nell'essere del bambino che si lancia verso l'anziano. Però devo dire che abbiamo anche degli anziani, alcuni oltre novantenni, che quando vedono i bambini si illuminano e quindi tra loro nasce qualcosa che è indescrivibile a parole perché va proprio osservato e va visto. Ma che bello. Con i propri occhi. Certo, ma che cosa imparano? Insomma, cosa si scambiano soprattutto questi grandi vecchi con i bambini? Allora, si scambiano emozioni. Perché? Perché l'anziano nella ricerca nel bambino quelle capacità, quel modo di essere felice, quella gioia di vivere che un po' magari ha accantonato. Il bambino ricerca l'attenzione dell'anziano, perché il bambino non ha pregiudizio, quindi anche, non so, la carrozzina, il bastone. Non importa, non sono ostacoli. Non sono assolutamente ostacoli, ma diventano delle risorse. Certo. Cioè la carrozzina dell'anziano diventa la macchinina per giocare. Per giocare. Il girello, ci sono alcuni anziani che fanno sedere sulla parte bassa del girello i bambini e li portano in giro come se fossero delle vere e proprie macchinine. Certo. Quindi si divertono veramente tanto. Senta, ecco, dottoressa Suzzani, ma il vostro progetto è unico o ci sono altre realtà come la vostra? Allora, in Italia noi crediamo, poi non abbiamo la certezza di essere tra gli unici, pensiamo di essere gli unici, sì. Nel senso che noi abbiamo preso spunto da una realtà francese quando abbiamo pensato questo progetto. Senta, un'ultima cosa, dottoressa sì. Suzzani, complimenti, ma che cosa ne pensano i genitori? I genitori, devo dire che negli anni hanno imparato ad apprezzare sempre di più questo progetto, che è sempre stato apprezzato fin dall'inizio, devo essere sincera. Vedono questo progetto come una risorsa per i loro figli, perché noi abbiamo anche molti bimbi stranieri e bimbi che magari hanno i nonni lontani. Quindi per loro questo è come avere dei nonni veri a disposizione e vicini a loro, anche perché i nonni dei nostri bimbi, essendo bambini molto piccoli, oggi sono molto giovani, molti certo, di loro sono lavorano attivi, ancora. Lavorano. Quindi diciamo che non rappresentano proprio quella che è la figura dell'anziano vero e proprio. Sono dei veri bisnonni questi praticamente. Sì, questi sì. Diventano dei veri bisnonni. Quindi devo dire che i genitori apprezzano molto questo progetto e ci sono bambini, addirittura abbiamo avuto un bimbo della Germania che adesso è tornato a casa e che per Natale è tornato a trovare i nonni alla casa di riposo e i nonni che sono bello. Stati felicissimi di questa cosa. Quindi noi siamo molto contenti anche di quello che di quella che può essere poi la ricaduta successiva, certo, negli anni in cui poi i bimbi escono dal nido e possono venire a ritrovare i nonni della casa di riposo. Ecco, prima di andare in pubblicità vorrei leggere questo SMS di Giuseppe Balsamo da Napoli, che dice, che fa riflettere, dice: la chat dei genitori è il trionfo del fallimento assoluto dell'alleanza educativa tra la scuola e la famiglia. Pubblicità. Mix 24. Allora, Pietrangio, che ci fai ascoltare oggi? Eccola. One last drink to wishful thinking and then another again. The bar is getting brighter and the walls are closing in. Journey on the jukebox singing, don't let the believing in. Allora, controordine del capotreno di tutti i treni oggi, fatto tornare tutti indietro verso casa e non per restarci, ma per cambiare rotta, destinazione, viaggio e fare villeggiatura. Oggi è martedì e, come dice sempre Salvo Figarra, si avvicina il fine settimana. Ha chiamato Carlo Goldoni, ha voluto questo brano per Mirandolina con un messaggio: oggi non si lavora, si va in laguna. L'alba è sorta da un pezzo, certo, però è sempre aurora. Questa cosa che si avvicina al fine settimana non è male, Mario. Anche già da lunedì ce ne vuole. Bolla. E poi tanto comunque lavoriamo lo stesso. Davvero. Cioè, per noi non è che cambia molto. Sweet Dreams, dolci sogni degli Eurythmics. Giovanni, vabbè, mi occupo di una cosa che apparentemente potrebbe sembrare, visto gli altri discorsi che abbiamo fatto, un po' così, un po' vabbè, molto materiale, ma in realtà è molto interessante, almeno a me interessa, e ve la propongo. Allora, General Motors vende Opel al gruppo francese Citroën Peugeot. E dietro questa storia però c'è una cosa che insomma viene un po' taciuta, e cioè il fatto che gli americani, principale gruppo automobilistico americano nel corso della storia, dopo 90 anni lasciano l'Europa. Certo. Ora, questo è un segno chiaro di, come dire, di sfiducia nei confronti del mercato del vecchio continente. Andava male, da Opel. Sì, andava male, e hanno realizzato perdite miliardarie nel corso degli ultimi 20 anni. Ma c'è qualcosa di più, secondo me, e cioè il fatto che il sistema regolatorio, diciamo il clima complessivo, quella che è la business confidence, diciamo, viene chiamata così, nei mercati, per l'Europa sta diventando un serio problema, cioè un mercato da 500 milioni di persone che è invaso dalla furia regolatoria della Commissione, dei vari parlamenti, perfino delle regioni e così via. Allora, forse questo è il, come dire, il campanello d'allarme più grande di quel problema che è venuto fuori dal vertice, mi pare un po' eccessivo chiamarlo così, insomma dall'incontro dei quattro, cioè l'Europa a due velocità. Ora, se tu, adesso vorrei la tua opinione, anche quella ormai di Petrangelo, se ne parla da tanto, se tu certifichi che ci sono due Europe, sì, e allora vuol dire che non c'è più questa. E questa non c'è più, infatti. Adesso no, bisogna trovare il modo di dirlo. Bisogna trovare il modo di dirlo e di renderlo ufficiale, diciamo, in qualche modo. Vuol dire che è finita. Questa Europa è finita. E questo oramai, diciamo, detto ognuno a modo suo, lo dicono tutti. Pietrangelo Salamino. Chi si guardò si salvò. Chi è? Oh, saranno giusto le idi di marzo, ma domanda che ci domandiamo, come quel re che gridò il mio regno per un cavallo, Matteo Renzi griderà il mio regno per un Arignano? Ho visto un re. Se la riscusa? Ho visto un re. Un re che... Ed è giusto un re lui, ma alberga una terza leggenda, e non perché Alberta si è persa l'agenda, ma perché è sempre un twist. Oh, perché questo del povero re ha visto trascinare nella polemica tutta la dinastia, niente meno che il segretario cittadino di Rignano sull'Arno, il genitore suo, il comunista dal volto Tiziano, che è donatore di torte squisite a detta degli annali e li portava ai vecchi comunisti, adesso è costretto ad annullare l'assemblea alla Casa del Popolo mentre, udite, 300 liberi e forti, ben 300 a 40 chilometri da Rignano, 300 liberi e forti si sono seduti alla cena sociale con Massimo D'Alema, che è un leader di così buon senso, del tal consenso, che non ha voluto, Giovanni, non ha voluto infierire su Renzi e sul caso Consip. Ha detto: non ho mai mescolato le vicende politiche con quelle giudiziarie. E comunque, povero re. Ho visto un re. Se la riscusa? Ho visto un re. Ah, sì. Un re che piangeva. Povero re, povera regina, il povero re è smarrito nel deserto degli ex. Ancora twist. Manco il tempo di essere ex premier che si ritrova ex segretario. Oh, lo sapete, Barack Obama, Tony Blair, Bill Gates, Jovanotti, Mago Telma, Maria De Filippi, Mark Zuckerberg e pure Oscar Farinetti gli hanno tolto l'amicizia su Facebook. No. Sì. No. Per non dire, Giovanni, che Repubblica, la Repubblica di, come si chiama, di Mario Calabresi, Calabresi, La Stampa di Maurizio Molinari, Il Giornale, Libero e perfino il Corriere non sono più tra i followers. Ma anche il Corriere. Ma no. Sì, anche il Corriere ha bannato Renzi. Sì, ha bannato Renzi con la sola eccezione di Maria Teresa Meli, che l'ascolta e ancora fino a... è riuscita a cogliere la notizia. La notizia che mai avremmo immaginato. Mai avremmo voluto sentire, ma è stata smentita. Mai avremmo voluto leggere, e che pure oggi mai avremmo voluto smentire, ma che pure oggi, attraverso una smentita che smentisce per affermare, e l'avvertiamo con uno stridio sinistro, leggiamo: Maria Elena Bostic ha litigato con Renzi per avere quest'ultimo difeso troppo. Difeso troppo, troppissimo e troppamente Luca Lotti, che è il prince di cotanto reale. Vabbè. Difeso più di quanto non abbia fatto con Babbo Tiziano. Insomma, povero re e povera la regina. Povero re e povero anche il cavallo. Sì, beh, ave, sì, beh. Chissà come va a finire. Chissà come va a finire. E che si bagna il cavallo, così c'è, è finito. C'è ancora una bolla, ma qui c'è Ulisse che ti scrive. Ulisse? Sì. Con la vendita di Opel nasce il secondo gruppo più importante d'Europa dopo la Volkswagen. È l'inizio della fine della Fiat FCA in Europa. Vediamo, Marchione prepara qualcosa. A chi prepara? Ma non credo in Europa. Lui ha sempre in mente l'integrazione con GM, cioè qualcosa di ancora molto più grande. Il problema è che Mary Barra, cioè non è d'accordo. Non è d'accordo, no. Però lui ha sempre quell'idea. Quell'idea lui... lì bisogna averla in due per farla. Infatti, Marchione dice: poi arriva il rombo di Mercedes e cancella tutto. Naturalmente, più che una bomba. Io avevo preparato una cosa sulle elezioni in Olanda. Vai con Ci abbiamo Elvis Costello. Sì. E c'è l'olandese il volante. Allora, è l'ultima settimana di campagna elettorale in Olanda, poi si vota ed è la prova generale poi di quella che è la grande elezione tedesca da una parte e francese dall'altra. Dunque entriamo nel pieno di un ciclo elettorale molto importante per l'Europa e elezioni olandesi ovviamente da tenere in considerazione, perché il partito nazionalista di Geert Wilders dovrebbe confermarsi primo, poi probabilmente non governerà per effetto delle alleanze. Vediamo. Segnalo un'altra cosa a proposito di partiti nazionalisti e così via, che il ministro degli esteri Lavrov ha ricevuto Salvini. C'è una nota ufficiale anche del ministero degli esteri che leggevo adesso. Secondo me questo è uno di quei segnali da cogliere, cioè senza ironia, senza ironia, sarà il punto di rincontro con Berlusconi. E questo l'apertura alla Russia è una di quelle cose che, guardate che Lavrov è un molto bravo, uno non bravo, ancora di più, cioè è proprio quello che sta sulla scacchiera di Putin. Bene, 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, sms pubblicità. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Mix 24. Il 7 marzo del 1999, dopo aver ultimato il montaggio di Eyes Wide Shut, il primo film dopo 12 anni di silenzio, Stanley Kubrick muore. Aveva 70 anni. Schivo, paranoico, perfezionista, ossessionato dalla riservatezza, dal culto del dettaglio, Kubrick non ama comparire in pubblico. Tra gli anni 50 e gli anni 80 realizza film straordinari, tutti capolavori: Orizzonti di gloria, Rapina a mano armata, Spartacus, Lolita, 2001 Odissea nello spazio, Arancia meccanica, Full Metal Jacket. Dopo la sua morte, la sua casa di Londra si scopre carica di scatoloni, casse chiuse da anni, piene di fotografie, lettere degli ammiratori catalogate in maniera maniacale, progetti, archivi su possibili film mai realizzati. Un materiale che fa gola a John Ronson, giornalista, scrittore e sceneggiatore che conosce a memoria i film di Kubrick e coltiva il sogno di curiosare dentro quelle casse. Per 5 anni, ogni giorno, fa visita alla casa del regista per prendere possesso del materiale. Poi nel 2007 quelle scatole traslocano e diventano un archivio pubblico a Londra. Nel 2008, col materiale raccolto, Ronson realizza un documentario. Io penso che Kubrick fosse consapevole della sua capacità di fare film geniali e che per farli, in un mondo con così tanti pessimi film, occorresse avere un metodo. Per lui, il metodo era precisione e cura dei dettagli. Dunque, a Stanley Kubrick è dedicata la puntata della storia di oggi. Adesso col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Journal Bone and Joint Surgery, dicembre 2016. Rischio di tromboembolismo venoso quando si ritarda l'intervento nei fratturati di femore. Quando ci si rompe il femore, tipico problema in genere della vecchiaia, bisogna riparare questo femore con una protesi il prima possibile. Infatti si dice che il tempo massimo dovrebbe essere entro le 48 ore e addirittura questo tempo è un indicatore di buona assistenza. Gli ospedali che riparano il femore entro 48 ore sono ospedali di buon livello. Ora, siccome la malattia, il problema è tipico dei vecchi, qualche volta bisogna ritardare forzosamente perché bisogna prima stabilizzare il paziente, perché magari è iperteso, perché ha la glicemia scassata, tutte cause che possono in qualche modo aver condizionato la caduta e la conseguente frattura del femore. Allora, questo ritardo favorisce la stasi venosa e l'insorgenza di trombi all'interno delle vene che di per sé non sono particolarmente gravi, ma lo sono nel momento in cui possano provocare un'embolia polmonare che può addirittura provocare la morte. Allora sono stati studiati 200 fratturati di femore dove l'intervento è stato per l'appunto posticipato, anche se sono stati scoagulati, sono stati messi in terapia con un anticoagulante. Bene, l'11% ha avuto un trombo dentro le vene e di questi una metà ha avuto addirittura un'embolia polmonare. Questi sono numeri, come si dice in gergo, non triviali, cioè sono numeri importanti, sono numeri da considerare che spingono ulteriormente ad operare il più precocemente possibile chi è che si è fratturato il femore. E per chiudere, Gloria Guerrera, cosa ha scelto per noi? Oggi una canzone per chi ha notato un nuovo sguardo sfuggente e già sa che nasconde la storia più comune e popolare. Avion Travel, Abbassando. Abbassando, abbassando, abbassando gli occhi. Non mi hai detto più la verità. Ci siamo persi senza dirlo. Prima del tempo. Del tempo nero che è venuto senza pietà, pieno di sospetti, fragili e netti, abbassando, abbassando, abbassando le mani sulle orecchie della mia anima. Mi son detto non è vero, è uno sguardo sincero. Sincero e puro come il mio pensiero perso nel parlare serio di passione. Passione mal padroneggiabile mi rende molto mobile sulle sponde del turchino spazio amabile. Con i piedi nell'acqua e un caffè nella pancia per mangiare con te, abbassando, abbassando, abbassando valigie.